Avventurieri, la Fenice è risorta. Ancora debole, sì, ma solo per pochi istanti. Non potete più fuggire, né combattere. L'unica via di salvezza ora è un antico incantesimo di teletrasporto. Un viaggio immediato, da compiersi alla velocità della luce. Per eseguirlo, dovrete canalizzare una quantità enorme di energia. Sappiate che la velocità della luce è pari a 3 per 10 alla ottava metri su secondo. Ciascun viaggiatore, con il proprio equipaggiamento, ha una massa di 100 kg. Secondo la formula di Einstein, energia uguale massa per velocità della luce al quadrato. Data questa formula, quanta energia, in joule, è necessaria per teletrasportare ciascuno di voi?